Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Al microfono Simone Spezia, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, alla pagina Facebook, dalla quale andiamo anche in diretta video e se volete potete commentare anche là, leggeremo anche quei commenti. Dall'altra parte del vetro Valeria Bernardi in regia, Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in assistenza in redazione. Iniziamo questa settimana che vi tocca, ve lo dico, tutta con me, saremo insieme fino a venerdì. Di che cosa parleremo oggi? Allora, ovviamente inizieremo e lo faremo proprio tra un attimo, ci collegheremo con Bruxelles, con Beda Romano per avere un aggiornamento sulle votazioni che sono riprese, o quantomeno sono riprese le trattative per quanto riguarda l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, per la quale Milano si sta battendo. Sono state già eliminate tutte, come avete sentito, tranne Amsterdam e Copenaghen, rimangono quindi queste tre città, secondo fondi europee, 25 voti a Milano, 20 a Copenaghen, 20 ad Amsterdam. È una partita che vale, secondo alcuni calcoli, 1 miliardo e 700 milioni di euro l'anno di indotto complessivo che riguarda l'EMA, perché non pensate solamente alle strutture, alle persone che vengono qua, ai lavori che ci saranno inevitabilmente, ma a tutto quello che ruota intorno al personale dell'EMA che potrebbe arrivare in Italia, incrociamo le dita, e tutto quello che ruota intorno vuol dire ovviamente le famiglie di queste persone, quindi un rilancio anche del mercato immobiliare, ma c'è anche tutto il resto, ovviamente, tanto per fare un esempio, ne parlavamo la settimana scorsa, con una parola che in Italia viene spesso mal interpretata, tutto il mondo della lobbying che ruota intorno a, per esempio, all'Agenzia Europea del Farmaco. E non solamente questo, ne parleremo più avanti, andremo a vedere anche quale può essere l'impatto economico, ma nel frattempo c'è la cronaca e ci arriveremo tra un istante. Notizie degli ultimi istanti ci raccontano che tafferugli sono in corso tra agenti di polizia e attivisti no TAP a Lecce, quelli che si oppongono alla Transadriatic Pipeline. Si sta svolgendo un incontro sui problemi energetici, gasdotti e sicurezza presso il rettorato dell'università e appunto ci sono stati scontri tra questi attivisti e la polizia. Un fatto che cade in una giornata nella quale affronteremo esattamente questo tema. Andremo a parlarvi con, anticipando qualcosa perché il rapporto verrà ufficialmente presentato domani, del rapporto del NIMBY Forum. Cosa vuol dire NIMBY con la Y finale? Not in my backyard, ossia non nel mio giardino, non nel mio cortile, per meglio dire. È quella sindrome che viene identificata di opposizione alle grandi opere o anche alle medie opere. Il settore energetico, come sempre, è al centro di questa tendenza. In genere c'è una politica che tende a soffiare sul fuoco. L'aumento è del 5% nel 2016 rispetto al 2015, 359 impianti contestati. Come si diceva, il settore energetico la fa da padrone e curiosamente dominano la scena gli impianti rinnovabili, di energie rinnovabili, cioè ci si oppone per esempio alle centrali a biomasse, alle strutture di compostaggio e ai parchi eolici. Ci occuperemo di elezioni in Germania, o meglio di governo in Germania, perché questa notte, come saprete probabilmente, Angela Merkel non è riuscita a trovare un accordo per formare il nuovo governo e c'è lo spettro, è una delle possibilità, non è la sola naturalmente, che si torni nuovamente al voto. Infine, il tema che ha dominato un po' tutta la settimana scorsa, il tema bancario. In particolare l'aumento di capitale di Carige, sul quale sembra esserci qualche schiarita. Iniziamo però, e prima ancora di andare alle nostre notizie in breve, un collegamento doveroso con Bruxelles e con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore. Beda, buonasera. Una votazione positiva per Milano al momento, ci sembra, almeno la prima. Sì, Milano è passata al secondo turno, il governo italiano se l'aspettava fondamentalmente, perché il dossier è piuttosto solido e la diplomazia italiana in queste circostanze riesce ad essere temibile, e quindi il governo italiano faceva affidamento alla possibilità di passare al secondo turno. È passata al secondo turno con le due città che Milano considera le più concorrenziali, in altre parole Amsterdam e Copenaghen. In questo momento i ministri degli affari europei che sono qui riuniti a Bruxelles, questo consiglio straordinario, sono in una pausa e ci sarà a breve il secondo turno, e tendenzialmente il secondo turno dovrebbe essere quello che decide il risultato finale, anche se la procedura di voto prevede anche un terzo turno nel caso in cui il secondo non sia sufficiente. Quindi dovremmo avere notizia breve. E Beda, l'ultima domanda che ti voglio fare in apertura è questa, anche qualche ascoltatore ce lo chiede, molti vedevano Bratislava come concorrente più forte, quantomeno dal punto di vista, per così dire, politico e geopolitico. Poteva darsi che i ministri si accordassero per dare, per portare in un paese dell'est in sostanza questa agenzia, e per rafforzare l'Europa verso est. La semplifico molto, naturalmente è più complessa di così, ma è per dare un'idea agli ascoltatori. Bratislava invece è stata eliminata, questo quantomeno un concorrente pericoloso che Milano si toglie, no? Ah, era un concorrente potenziale, perché vi era un criterio geografico che prevede che le agenzie comunitarie siano in un modo o nell'altro sparse attraverso tutta l'Unione Europea. Naturalmente i paesi dell'Est sono entrati nell'Unione Europea nel 2004 e hanno tuttora un numero limitato di agenzie comunitarie sul loro territorio. E quindi si è pensato, a torto o a ragione, negli ultimi mesi che Bratislava era un concorrente temibile per le città dell'Ovest. In così. Questa circostanza ho l'impressione che il voto abbia dimostrato come i paesi dell'Est non hanno votato come un gruppo compatto a favore di Bratislava. Mi sembra la cosa più ovvia per il risultato del primo turno. Uno spunto importante anche questo. Grazie a Beda Romano per questo aggiornamento, e vedremo cosa vi sapremo dire in corso di trasmissione, perché può darsi a questo punto che il risultato arrivi anche in corso di trasmissione. Iniziamo dunque dalle notizie in breve di oggi. Oh, e non vi ho dato l'andamento di borsa, chiedo perdono. Più 0,44% il FTSE MIB, più 0,55% il FTSE All Share, con Parigi che guadagna lo 0,44%, Francoforte lo 0,64%, Londra lo 0,15%, l'America è positiva, più 0,37% il Dow Jones, più 0,15% lo Standard & Poor's 500. Ai mercati ci arriveremo tra poco, come sempre, e come sapete. Oro in calo dello 0,6% a $1,285 l'oncia, in calo anche il petrolio dell'1,15% a $56 al barile. Registriamo di oggi le dichiarazioni davanti al Parlamento europeo del Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Dice ripresa solida, l'inflazione ancora non convince. Sentiamo le sue parole. The economic expansion remains solid and broad-based across countries and sectors in the euro area. L'espansione economica resta solida e ampia per quanto riguarda i settori e i paesi della zona euro, sostenuta soprattutto dalla domanda interna. Le stime più recenti indicano che la crescita del PIL è continuata nel terzo trimestre a un ritmo del 2,5% anno su anno. Il dato fa sì che siano 4 anni e mezzo di trimestri in crescita. Il mercato del lavoro continua a beneficiare della ripresa economica e la profonda perdita di posti di lavoro registrata nel corso della crisi è stata controbilanciata, almeno nell'aggregato. Nonostante la solida ripresa economica dell'area euro, le dinamiche di inflazione devono ancora mostrare segni convincenti di una tendenza rialzista in grado di autosostenersi. L'inflazione era all'1,4% in ottobre e ci aspettiamo una discesa temporanea verso la fine dell'anno, dovuta soprattutto a una debole componente energetica. Le pressioni di fondo sull'inflazione restano sottotono e il ritardo del mercato del lavoro resta significativo. I miglioramenti che abbiamo visto sul lavoro necessitano di tempo per trasformarsi in dinamiche salariali più forti. Dice ancora Draghi, assicurare la stabilità dei prezzi è una precondizione per l'economia della zona euro per raggiungere una crescita bilanciata. E ancora i paesi europei, non è solo il tempo di fare riforme strutturali, dice Draghi, è anche il tempo per migliorare la situazione dei bilanci senza aspettare che venga dalla crescita o dai tassi bassi. Il fronte della Germania. Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha rivolto un appello a tutti i partiti. Mi aspetto che siano disponibili al dialogo per formare un governo in tempi vicini. Tutti i partiti sono tenuti a servire il paese. Chi si presenta alle elezioni per avere responsabilità politica non può tirarsi indietro. Questa questione della Germania mi dà anche l'occasione di rispondere a un ascoltatore che scrive al 349-238-6666 via WhatsApp. Vorrei capire perché tornare al voto in Germania dovrebbe essere uno spettro, perché dare la voce ai votanti può essere uno spettro. Intendiamoci, qua ci si riferisce all'impatto economico in termini di incertezza che può avere un nuovo voto in Germania. Figuriamoci se è un problema il fatto che la gente vada a votare ed eventualmente rivoti. Il punto è che siamo stati in attesa delle elezioni tedesche che ci sono appena state per molti mesi, con molte preoccupazioni tanto a livello europeo quanto a livello italiano, per molte preoccupazioni anche per il futuro della politica monetaria della Banca Centrale Europea. Adesso il fatto che la Germania torni a votare è un elemento di preoccupazione, è indubitabile, perché crea instabilità, hanno appena votato del resto. Di EMA abbiamo detto e ci arriveremo tra un attimo. Per quanto riguarda l'Italia abbiamo il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che dice, non pensate che fuori dall'Eurozona ci siano queste praterie inesplorate e meravigliose. Sentiamolo. E dal terzo trimestre di quest'anno non siamo più neanche lo stereotipo che ci ha un po' accompagnato e che era anche un fattore di stimolo, giustamente, per la nostra economia. Però voglio dirlo come avviso ai naviganti, non siamo più neanche il fanalino di coda, come ci siamo ripetuti tra noi molto spesso in questo periodo, perché per chi non se ne fosse accorto ci sono altri paesi europei che hanno per il 2017 una crescita tendenziale più bassa dell'Italia. E tra questi che hanno una previsione di crescita tendenziale più bassa dell'Italia, e certamente non me ne compiaccio, c'è anche un grande paese europeo che ha deciso di uscire dall'Unione Europea. E tra le due cose forse c'è anche un qualche collegamento, lo dico a chi accarezzasse con una certa superficialità l'idea che fuori dall'Eurozona e ancor più fuori dal mercato unico ci siano delle praterie inesplorate e straordinariamente positive. Oggi, nel 2017, l'Italia ha una crescita tendenziale più alta di alcuni altri paesi europei e tra questi anche di quel grande paese amico che ha deciso legittimamente, democraticamente di uscire dall'Unione e quindi dal mercato unico. E poi c'è il tema che è sullo sfondo, ma nemmeno troppo, che è quello dell'intervento sulle pensioni. Domani un momento di trattativa che dovrebbe essere decisivo tra governo e sindacati sul tema dell'innalzamento dell'età pensionabile, con la CGIL che è molto dura, minaccia mobilitazione. Gentiloni dice i sindacati condividano lo sforzo. È in questo quadro che abbiamo anche affrontato la questione dell'adeguamento dell'età pensionabile all'aumento delle aspettative di vita, sapendo che questo principio, questo pilastro del nostro sistema pensionistico e della nostra sostenibilità finanziaria non può che essere confermato, e del resto le stesse grandi organizzazioni sindacali non lo hanno mai messo in discussione, e sapendo anche che è giusto questo principio applicarlo adottando, se possibile, le misure di accompagnamento, di attenuazione di questa dinamica che si possono adottare compatibilmente con le nostre risorse e le nostre disponibilità. È quello che abbiamo fatto lavorando in queste settimane, investendo su un ruolo delle organizzazioni sindacali che io considero personalmente un ruolo molto importante nel panorama sociale della nostra Italia, e mi auguro che le organizzazioni sindacali condividano questo sforzo, perché si sono ottenuti dei risultati e non riconoscerlo credo sarebbe un errore, e soprattutto sarebbe in un certo senso una rinuncia a esercitare quel ruolo così importante che le organizzazioni sindacali esercitano in un paese come il nostro. Poi qua abbiamo notizie, avete sentito anche poco fa nel giornale radio, quella secondo la quale circa una su tre delle società partecipate in via diretta alle amministrazioni pubbliche sarà interessata da interventi di dismissione, cioè parte il piano tagli per le partecipate. C'è questa idea, che in realtà è anche una legge, che detta l'eliminazione delle scatole vuote, le società nelle quali gli amministratori sono più numerosi dei dipendenti o le società sono in rosso cronico. Quando vedremo questa regola applicata saremo contenti, perché ormai ne parliamo da troppo tempo. Quindi quando vedremo queste società chiudere. Oggi è iniziato un roadshow, una serie di appuntamenti che toccheranno varie città in Italia per sensibilizzare da una parte proprio la pubblica amministrazione e dall'altra le aziende sull'importanza della trasformazione digitale. E perché di questo roadshow lo ha chiesto il nostro Enrico Pagliarini a Elio Catania, presidente di Confindustria Digitale. Noi abbiamo accumulato un ritardo enorme nel paese, però il fatto positivo è che il paese si è messo in movimento. Con il piano Industria 4.0 del governo e di Confindustria, devo dire, abbiamo dato un po' uno shock ai nostri imprenditori, facendo salire nella scala di priorità il tema del digitale, il tema della trasformazione competitiva, che poi vuol dire crescita, vuol dire occupazione, vuol dire sopravvivenza del sistema produttivo del nostro paese, partendo dal manifatturiero. Oggi abbiamo voluto aprire questo ventaglio operativo al mondo della pubblica amministrazione, cioè non possiamo avere un'industria 4.0 ed una pubblica amministrazione magari 2.0 nelle migliori delle ipotesi. Esiste un piano, che è il piano che il commissario ha messo a punto, adesso questo piano va scaricato a terra nei vari territori, devono diventare servizi per le imprese e per i cittadini. Ecco, in questa iniziativa noi vogliamo dare di nuovo un po' una scossa al sistema della pubblica amministrazione e degli imprenditori, che insieme nei vari territori possono portare avanti questo processo di trasformazione, che vuol dire poi efficienza, efficacia, risparmi ed eliminazione delle varie burocrazie che purtroppo ancora attanagliano il nostro sistema produttivo. Le grandi imprese, per la loro dimensione, lo hanno capito prima degli altri. Siamo alla fase iniziale anche per il sistema delle piccole e medie imprese italiane, quindi non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, mantenere alta la pressione. Il documento economico finanziario del governo ripristina e rafforza tutte le misure anche di incentivo, ma sul versante della pubblica amministrazione non abbiamo visto la stessa mobilitazione, ed è questo quello che noi vogliamo, proprio far salire l'attenzione sul tema della trasformazione digitale. E veniamo al primo tema di giornata. Dico all'ascoltatore in realtà preoccupato che ci scrive, io lo comprendo benissimo, dice non si dorme più la notte, azionista di Carige, non sa che cosa fare, non si preoccupi. Al tema delle banche arriveremo, ci arriveremo più avanti, ne parleremo in questa puntata, continueremo a parlarne. Io nel frattempo non posso continuarvi a dire che ci sono mille canali aperti in tutto questo gruppo editoriale su questi temi. Noi abbiamo Due di Denari che se ne occupa e torna ad occuparsene, abbiamo qua Focus Economia, ci sono tutte le redazioni del Sole 24 Ore, quindi informatevi, scrivete. I canali del gruppo sono aperti per voi, proprio per rispondere alle vostre domande e anche ovviamente per informarvi. Comunque tra poco ci arriveremo. Allora, le cronache da Lecce, ma proprio di questi minuti, ci raccontano che uova vengono lanciate dagli attivisti No Tap contro gli agenti di polizia che in assetto antisommossa sono all'esterno della sede dell'università, dove è in corso un incontro sul tema energetico, al quale partecipa, tra gli altri, il country manager di Tap, Michele Mario Elia. La piazzetta è blindata dalle forze dell'ordine. Ci sono anche dei manifestanti in sala, ci sono stati dei tafferugli. E con puntualità sconcertante, domani viene presentato il 12° rapporto annuale del NIMBY Forum, attivo dal 2004. L'obiettivo è di analizzare l'andamento della sindrome NIMBY, not in my backyard, non nel mio cortile, ossia l'opposizione alle opere, che vede le opere energetiche in prima fila tra quelle contestate. Alessandro Beulk, presidente di Allea, l'agenzia che promuove l'osservatorio NIMBY Forum e, come dire, che non ha pagato gli attivisti No Tap per protestare, per far più notizia sui dati diffusi oggi. Beulk, buonasera. Buonasera a voi. No, non c'entriamo assolutamente niente con le proteste. Cioè, ci mancherebbe altro. Allora, 359 impianti contestati, più 5% sul 2015, quindi una crescita, con in prima fila ovviamente e sempre gli impianti energetici. Esatto, è proprio così. Siamo arrivati oramai alla cifra, siamo quasi vicino ai 400 impianti contestati, quando fra l'altro diciamo impianti noi intendiamo sia impianti per la produzione di energia elettrica, sia per lo smaltimento dei rifiuti, sia infrastrutture come reti viarie, ferrovie, autostrade, eccetera, eccetera. Quello che vediamo è una sindrome oramai dilagante, sindrome NIMBY dilagante, quindi una contestazione a qualsiasi mutamento dello status quo, che sia una banale condotta del gas, perché di quello sulla TAP si parla, in Puglia si parla, che sia l'impianto per lo smaltimento dei rifiuti, che sia qualsiasi tipo di altra iniziativa industriale. Sono molto molto cresciute dalla prima edizione, 190, oramai più di 10 anni fa, e siamo arrivati a 359, un dato piuttosto allarmante. Sì, 37 termovalorizzatori, 30 discariche di rifiuti urbani, 18 discariche di rifiuti speciali e ancora 43 impianti a biomassa, 20 di compostaggio, 13 parchi eolici. Questi sono i numeri delle contestazioni che ci sono in Italia. E qua c'è un tema di fondo, Beulk, che a mio giudizio almeno è il più interessante. Ora lasciamo stare la vicenda di TAP, dove si mescolano, nella quale si mescolano tante cose. Lasciamo stare, anche se anche in quella ci sono elementi di questo tipo. Lasciamo stare la vicenda TAV, che tanto abbiamo raccontato. Qua c'è un tema di una politica che cavalca queste proteste per obiettivi fondamentalmente elettorali o di consenso. Ma assolutamente sì, tant'è vero che noi continuiamo a chiamarci NIMBY Forum perché è il nostro nome storico, il nome storico dell'osservatorio, del progetto, ma in realtà oramai il fenomeno si è molto esteso, si è molto allargato, ha preso anche altre denominazioni, tra cui tra le più famose la NIMTO, Not in My Term of Office, non nel mio mandato, e cioè quella sindrome che è strettamente collegata al NIMBY di quelle, diciamo, di quelle amministrazioni pubbliche, quindi quegli amministratori pubblici, la politica e politici, che cavalcano la protesta prima ancora che la stessa si manifesti. Perché? Per un banalissimo motivo, perché purtroppo a livello territoriale, ogni livello territoriale, quindi nord, sud, centro, non c'entra assolutamente nulla, ci sono, diciamo, la politica territoriale che cosa fa? prende il tema del termovalorizzatore, poniamo quindi l'insediamento industriale, e ne fa un oggetto politico. Sì. Quindi non è tanto interessante il dibattito dal punto di vista tecnologico, ambientale, dei reali impatti, eccetera, eccetera, ma si scatena una battaglia sul sì o sul no per fare proselitismo elettorale, né sì, più né meno che quello. E questo è un fenomeno che vediamo molto spesso in tutti i territori italiani. L'ultimo spunto che le voglio chiedere il più possibile in breve riguarda il débat public, ossia l'idea che si vada tra la gente e si dibatta di un'opera, si discuta di un'opera, si cerchi di convincere le persone della necessità di un'opera, si accettino eventuali modifiche. Il modello francese, per così dire, non a caso il nome che viene utilizzato, l'espressione che viene utilizzata è francese. Ancora molto carente, ci sembra? Assolutamente sì, il débat public ancora non ha un decreto attuativo, quindi non è ancora impiantato nel quadro legislativo italiano. Ci sono degli esempi virtuosi, volontari di molte imprese, molti proponenti che provano diciamo, a spingere un modello quale il débat public, che è assolutamente necessario. Oggi un'opera non può farsi senza un consenso sociale, che non vuol dire un consenso di tutti, per carità, ma di una maggioranza della collettività senz'altro, e quindi non si può che passare attraverso delle politiche di comunicazione, di informazione, di consenso, le più dettagliate possibili. Ecco, alcuni casi ci sono, ma molto molto si può anche fare. E grazie dunque ad Alessandro Beulke per questo racconto dell'Italia, di un pezzo dell'Italia del no. Poi lo dico agli ascoltatori che ci scrivono, magari alcune di queste persone hanno perfettamente ragione a non volere l'impianto in quel territorio per tutta una serie di motivi, però diciamo che la sindrome c'è, è da segnalare anche che spesso viene cavalcata dai politici. Qualcun altro ci scrive: no, la gente si incavola perché le gestioni e le assegnazioni spesso non sono proprio chiare, e di questo si lamentano anche le aziende, del fatto che le assegnazioni e le gestioni spesso non sono proprio chiare. Non a caso spesso le opere vengono bloccate esattamente da burocrazia o da pronunciamenti di tribunali amministrativi. Succede abbastanza spesso. Ci fermiamo, c'è la pausa per il meteo, ci ritroviamo subito dopo e andiamo ai mercati. State ascoltando un programma offerto da DocFlow, agire in digitale. Scopri di più su docflow.com. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, sempre 349-238-6666 per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, la pagina Facebook di Radio 24 dalla quale andiamo in diretta insieme a quella di Focus Economia. L'ultimo aggiornamento dalle votazioni per aggiudicarsi l'Agenzia Europea del Farmaco, seconda votazione avvenuta, ballottaggio Milano contro Amsterdam, il capoluogo lombardo ha ottenuto 12 punti, Amsterdam ne ha ottenuti 9, secondo quello che riferiscono fonti di Bruxelles. È probabile che già nel corso di questa trasmissione siamo in grado di dirvi se è andata per Milano oppure no. Veniamo ai mercati, alla giornata di mercati, posto che di EMA torneremo a parlare tra poco. Giornata di mercati che positiva, più 0,44% il FTSE MIB, più 0,48% il FTSE All Share. Paolo Paronetto, Radio Correzione 24 Ore, buonasera, che giornata è stata? Vai. Buonasera a tutti. Sì, diciamo che le borse hanno aperto in positivo alla fine, la prima seduta di questa settimana, dopo due settimane che hanno chiuso con bilancio in rosso le ultime due settimane. I listini sono stati sostenuti in particolare dagli acquisti sui titoli del settore auto, grazie ai target di investimenti annunciati da Volkswagen, che hanno messo il buon umore a tutti i principali titoli del comparto, dai titoli farmaceutici e da quelli delle materie prime in generale. E Milano ha chiuso sul FTSE MIB con un rialzo dello 0,44%, è stata in parte frenata dallo stacco del dividendo da parte di 6 società, che pesa complessivamente, oggi ha pesato per lo 0,22%. Ti porterei subito sulle due banche al centro dell'attenzione, posto che ti chiedo di non entrare troppo nei dettagli, nel senso che tra poco ci andremo, affronteremo anche il tema delle banche, però Carige e Creval. Sì, destini divergenti, che di più non si potrebbe. Oggi per Carige, dopo 2 giorni di sospensione, il titolo non è riuscito a far prezzo per gran parte della giornata, ma ha chiuso poi in calo del 37,54% a 9,2 centesimi dopo l'approvazione dei termini dell'aumento di capitale da 560 milioni arrivato, come poi spiegherete meglio, dopo giorni di trattative con le banche del consorzio di garanzia. Invece il credito valtellinese ha chiuso con la migliore performance di giornata, un rialzo del 47,67%, in questo caso si tratta di un rimbalzo avvenuto oggi quando la Consob ha sospeso le vendite allo scoperto sul titolo, dopo che il titolo appunto aveva perso circa il 70% nelle ultime 2 settimane dopo l'annuncio dell'aumento di capitale da 700 milioni. Più 4,21% è il titolo migliore del listino principale, Mediaset. Sì, Mediaset è tornata a salire sulla speculazione dovuta ad alcune indiscrezioni che danno per imminente un accordo extragiudiziale con Vivendi per chiudere la contesa con il gruppo francese. Naturalmente sono solo indiscrezioni, non si conoscono i dettagli di un possibile accordo, in particolare non si conosce quale potrebbe essere nell'ambito di questo accordo il destino della Pay TV Premium, ma questo è un nodo, quello della contesa con Vivendi, che da tempo pesa sui destini della società e del titolo in borsa. Quindi la speranza di un esito positivo della chiusura comunque di questo contenzioso oggi ha messo le ali al titolo. Tonico tutto il settore auto in Europa, Fiat Chrysler guadagna l'1,7%, bene oggi tra l'altro anche CNH che guadagna il 2,92%, Ferrari 1,5% di guadagno, che succede? Sì, diciamo che appunto qui il tema principale è Volkswagen, che ha annunciato target di investimento del nuovo piano che sono piaciuti ai mercati e lasciano presagire segnali positivi per il settore. Volkswagen infatti ha guadagnato a Francoforte oltre il 4%, trainando al rialzo tutti i titoli del settore auto europeo. Fiat Chrysler, come ricordavi tu, ha chiuso un rialzo dell'1,7%. Grazie Paolo Paronetto, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, per questo aggiornamento di mercati. In ultimo vi do qualche titolo io: Buzzi Unicem in guadagno del 2,81, Banco BPM del 2,69%, bene anche Banca Generali che guadagna il 2,2 e Azimut il 2,3%, positiva Moncler e Italgas entrambe sopra i 2 punti percentuali di guadagno, e poi di Fiat Chrysler vi abbiamo detto. In fondo al listino oggi, almeno al listino principale, adesso vediamo di recuperare il dato. C'è Terna che cede il 2,03%, Leonardo che cede lo 0,99%, Atlantia lo 0,7%, Brembo lo 0,47%. Il traffico, e poi andiamo a parlare del voto in Germania. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, sempre 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Oh, mi sono sfuggite 2 righe prima. Il titolo peggiore non era Terna, i titoli peggiori erano Mediobanca, che scende del 3,65%, Banca Mediolanum del 2,86%. Qua ci sono però anche cedole, così come quella di Terna, lo stacco della cedola, così come per Atlantia. Abbiate pazienza, qua si lavora con 4 schermi, SMS, quello per gli SMS, quello per WhatsApp, quello per la diretta Facebook, perché vi leggo anche quando scrivete là, i mercati da un'altra parte, le agenzie da un'altra, e ogni tanto sfugge qualcosa. Alessandro Merli, corrispondente da Francoforte, dalla Germania, del Sole 24 Ore. Ciao Alessandro, buonasera. Buonasera a voi. Per parlare del governo tedesco che non si riesce a formare perché si sono rotte le trattative per il governo cosiddetto Giamaica, una rottura che è avvenuta nella notte e che potrebbe, Alessandro, portare al voto la Germania di nuovo, no? Ma intanto porterà una paralisi di qualche tempo sia la Germania che l'Europa, in quanto ovviamente senza un governo pienamente funzionante in Germania anche le scelte che devono essere prese in Europa, soprattutto sulla riforma dell'Eurozona, non si potranno prendere. Le opzioni a questo punto, dopo la rottura delle trattative, sono diverse. La palla è in mano al Presidente della Repubblica, Frank-Walter Steinmeier, il quale ha già fatto sapere che vorrebbe a tutti i costi evitare le elezioni. Quali carte ha in mano? La prima è mercoledì, nell'incontro con i suoi ex compagni di partito della SPD, i socialdemocratici, fare pressione perché sostengano un nuovo governo di grande coalizione o quantomeno un governo di minoranza a guida democristiana con un appoggio esterno. E questa è appunto la seconda possibilità, governo di minoranza. Teniamo conto che sia il governo di minoranza sia le nuove elezioni immediatamente dopo quelle precedenti o pochi mesi dopo quelle precedenti sono un fatto che non è mai accaduto nella storia politica tedesca. Ti interrompo Alessandro perché io non so se hai sotto ovviamente le agenzie con le dichiarazioni che stanno arrivando. Ci sono dichiarazioni poco fa della cancelliera tedesca Angela Merkel che dice che il ricorso alle elezioni anticipate sarebbe meglio che formare un governo di minoranza, quindi lei stessa sembra escluderlo al momento, posto che può essere anche un elemento di trattativa questo, no? Una dichiarazione di trattativa perché siamo in una fase preliminare. Ma sì, anche perché un'altra opzione è quella di cercare di richiamare al tavolo del negoziato i partiti che hanno appena rotto dopo 4 settimane di colloqui, quindi non solo i democristiani della signora Merkel, ma i liberali, che sono quelli che poi hanno staccato la spina alla trattativa, e i verdi. Quindi diciamo che è tutto aperto, come dicevi. Si tratta di posizioni negoziali. È chiaro che in questo modo la signora Merkel cerca di accreditarsi come la portacolori o l'artefice della stabilità, come è sempre stata vista dai tedeschi in questi 12 anni. Sicuramente la situazione è molto fluida, il fatto che non ci siano precedenti a una situazione del genere e nemmeno a una coalizione a tre come si pensava con i liberali e i verdi, insomma, lascia un larghissimo margine di incertezza. Il tutto in una fase ottima per l'economia tedesca, in realtà, Alessandro, no? Oggi la stessa Bundesbank nel quarto trimestre, secondo il suo rapporto di novembre, dice che è stato un quarto trimestre appunto molto, molto positivo. Sì, l'economia a breve termine chiaramente non ha problemi, crescerà più del 2% sia quest'anno che molto probabilmente anche l'anno prossimo. Citavi il rapporto della Bundesbank, c'è stato un intervento del capo dei cosiddetti saggi che fanno da consiglieri economici al governo tedesco, il quale a sua volta ha detto problemi di breve termine non ce ne sono, ci sono però casomai dei problemi di più lungo termine, di i cosiddetti problemi strutturali dell'economia tedesca, la demografia, la digitalizzazione, l'assenza di investimenti pubblici, che sono tutti problemi che deve affrontare il prossimo governo. Se il governo non c'è, teniamo conto che non è stato nemmeno passato il bilancio 2018 ancora, quindi se il governo non c'è tutto questo rimane in stallo. Problemi a breve termine per l'economia non ce ne sono, a più lungo termine potrebbero invece essercene, come appunto per la costruzione europea, come dicevamo prima. Sì, perché esattamente questo è il tema, e così rispondiamo anche ai molti ascoltatori che scrivono dicendo: ma voi ce l'avete con le elezioni, con la libera espressione dei cittadini, con il fatto che possano andare a votare, ma figuriamoci se la pensiamo così. Il tema è un altro, il tema è che la Germania ha votato quando, Alessandro? 2 mesi fa, insomma, e il fatto che possa tornare al voto a breve termine è un elemento di preoccupazione per la stabilità economica tedesca, per la stabilità economica fondamentalmente e politica un po' di tutta Europa. Il tema è questo ed è per questo che ce ne preoccupiamo e ce ne occupiamo, no? Ma intanto, appunto, come dicevi, la Germania ha votato il 24 di settembre, quindi non è che gli elettori tedeschi siano tenuti all'oscuro, a distanza, diciamo, dalle decisioni. Oltretutto c'è un processo costituzionale in Germania che prevede una serie di passaggi prima di andare ad un altro voto, perché dovrebbero esserci 3 votazioni del Bundestag, e poi se non emerge una maggioranza il Presidente potrebbe sciogliere le Camere ed eventualmente andare a nuove elezioni. C'è da rilevare un'altra cosa, che dalle elezioni a oggi tutti i sondaggi hanno mostrato degli spostamenti molto molto marginali rispetto al voto del 24 del settembre. È possibile che questo fallimento della trattativa sul governo sposti qualcosa, ma difficilmente lo sposti. Nel senso di una maggior governabilità. Se si vuole, quindi è probabile che guardare un voto di protesta, è possibile che aumenti un po' il voto per il partito anti-euro, anti-immigrati, però, alternativa per la Germania. È anche possibile. Però comunque non è questo che risolverà il problema della governabilità tedesca. Esatto, rischi di trovarti comunque un Parlamento appeso. Chissà se la Germania... Non so esattamente quali siano i tempi di voto della Germania. Se dovesse tornare alle urne, qualche ascoltatore dice, sai, se dovesse votare in contemporanea all'Italia, che figata di campagne elettorali, champagne per tutti. Beh, insomma, il GR, ci ritroviamo subito dopo. Popolo dei già svegli, dei lavoratori, dei pensatori desti con il sorgere del sole e degli incolonnati vigili nel traffico delle metropoli. Sono Luca Telese. Vi aspetto con la rassegna stampa, le grandi opinioni, le interviste che fanno pensare. Non mancate. 24 mattino, tutti i giorni alle 6.30 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da... DocFlow, agire in digitale. Scopri di più su docflow.com. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia, 349-238-6666 per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, la pagina Facebook dalla quale stiamo continuando ad andare anche in diretta video, e se volete potete commentare anche là. Seconda parte di Focus Economia, nella quale affronteremo due temi: l'EMA, l'Agenzia Europea per il Farmaco, si stanno contando i voti in questo momento, si è conclusa la terza e ultima votazione, ci riferisce Radio Cori, il Sole 24 Ore, la nostra agenzia di stampa. E quindi a breve dovremmo avere il risultato. Ricordiamo che, come avete sentito anche da GR24, al ballottaggio erano andate... Dopo la prima votazione erano rimaste in campo solamente Milano, Amsterdam e Copenaghen. Copenaghen esclusa nella seconda votazione, rimangono Milano e Amsterdam e siamo qua in attesa. Una partita di dimensioni economiche, Sara Monaci del Sole 24 Ore, buonasera, notevoli e che vanno ben al di là del capoluogo lombardo, no? Sì, assolutamente. È stata calcolata dalla SDA Bocconi un indotto economico che si aggira intorno a 1,7 miliardi per quanto riguarda proprio il trasferimento dell'ufficio. Oltre al trasferimento bisogna calcolare che ci sarà una serie, se arriverà a Milano, una serie di eventi e di convegni per circa 100.000 visitatori all'anno, con un indotto che potete immaginare, ovviamente principalmente per la città di Milano e per la Lombardia, però chiaramente stiamo parlando del settore farmaceutico, un settore che in Italia è molto importante. La partita è in corso, quindi diciamo a breve, tra pochi minuti, vedremo se Milano avrà la fortuna di ospitare l'EMA o meno, che non è un caso, si tratta proprio della partita più ambita, proprio perché l'indotto sembrerà strano, sembrerebbe più alto di quello dell'EBA, che è l'Agenzia Europea delle Banche, per cui l'Italia non ha espresso alcuna candidatura. Si è stata esclusa all'inizio quella che sembrava una candidatura, l'abbiamo raccontato all'inizio, temibile, che era quella di Bratislava, candidatura temibile più che altro da un punto di vista politico e geopolitico, cioè con l'idea che si volessero distribuire meglio sul territorio le autorità di controllo europee, e che si desse una sorta di aiuto, una sorta di segnale soprattutto ai paesi dell'est. Ma come ci diceva Beda Romano in apertura, evidentemente i paesi dell'est non hanno votato compatti, al altrimenti Bratislava probabilmente quantomeno al secondo turno sarebbe passata. Torniamo tra un attimo da Sara Monaci. Intanto ascoltiamoci questa intervista, l'intervista realizzata da Livia Zancaner con Vincenzo Salvatore, che è l'ex capo del servizio giuridico dell'EMA e membro del tavolo tecnico di promozione della candidatura di Milano. Sentiamo. Oltre agli 890 funzionari che comunque o si sposteranno o dovranno essere sostituiti impiegando altri funzionari, c'è tutto l'indotto delle famiglie, dei funzionari con figli in età scolare, e poi c'è l'indotto creato dagli esperti che provengono dagli stati membri, per cui EMA lavora attraverso comitati scientifici dove ci sono delegati degli stati nazionali, e questi esperti viaggiano ogni settimana per partecipare alle riunioni dell'EMA, quindi si conta che ci sia un movimento di circa... Allora, scusate, interrompiamo l'intervista con Vincenzo Salvatore, magari avremo l'occasione di riascoltarla, perché la nostra Sara Monaci ha una notizia da darci. Vai, allora, Sara. No, in realtà mi stanno dando delle notizie in diretta da Bruxelles piuttosto confuse. Un minuto fa eravamo a 13 pari e si va al sorteggio. Adesso mi stanno dicendo che è uscita un'agenzia che dice che ha vinto Amsterdam, però aspettiamo chiarimenti, perché le nostre fonti che sono lì proprio davanti agli uffici del Consiglio europeo hanno due tipi di informazioni diverse. Sì. Probabilmente dovrebbe uscire proprio nell'arco di pochi secondi un'agenzia che forse chiarisce meglio. Allora, qua abbiamo un'agenzia, abbiamo Radio Corre, il Sole 24 Ore, la nostra agenzia, l'agenzia del nostro gruppo editoriale, la quale dice che appunto si andrà al sorteggio. Questa sarebbe l'indicazione. In questo momento si stanno... Beh, sorteggio vuol dire che siamo al caso, ci affidiamo al Presidente del Consiglio europeo Affari Generali, che a quel punto tirerà su la monetina e deciderà chi tra le due uscirà. Però attenzione che non è detto sia la versione poi definitiva. Sì. Qualcuno potrebbe dirci a breve che ha vinto Amsterdam, perché in effetti si parlava di una possibilità di alleanza. Anche l'ANSA, anche l'agenzia di stampa ANSA converge sulla parità Milano-Amsterdam. Ecco. E appunto ed è un sorteggio, quindi si va un po' come andare ai rigori, insomma. Sì, forse anche peggio, tiriamo su una monetina. A sorte qua dicono: Simone, vedrai che Milano non passa perché a livello politico non contiamo niente, come sul calcio internazionale. Ha vinto Amsterdam, no, attenzione, ha vinto Amsterdam, è finita, ha vinto Amsterdam al sorteggio. Questo è quello che mi dicono le mie fonti a Bruxelles, e dovrebbe essere andata così. Questa è la notizia che abbiamo al momento. Facciamo una cosa, ci prendiamo un attimo una pausa per verificare ancora meglio le notizie, come stanno le cose. C'è il traffico, quindi sentiamo che cosa succede sulle strade, e poi vediamo che cosa succede a Bruxelles. Sentiamo. Focus Economia. Dunque, Sara Monaci, ci dai la brutta notizia, ci pensi tu che... Sì, purtroppo è andata male per Milano, che però se l'è giocata fino all'ultimo, questo possiamo dircelo. Era assolutamente tra le migliori candidate, un ottimo dossier. Purtroppo si è arrivato a quello che non sembrava possibile, ovvero un sorteggio. Era difficile anche un terzo turno, invece siamo arrivati ad un quarto turno, che significa alzare la monetina e decidere chi fra le due vince. Questo è il dato purtroppo che arriva per Milano, poi ci sarà tempo e modo di riflettere, lo farà anche il... lo troverete sui giornali, ci torneremo anche domani su che cosa fare a questo punto, non solamente dal punto di vista dell'EMA, ma come far sì che questo sforzo unitario che c'è stato per arrivare a questo risultato, che non è arrivato per sfortuna, qualche ascoltatore ci scrive abbiamo finito anche... la fortuna, non dice esattamente così, dice abbiamo finito anche la fortuna, non ci resta che piangere. Non è esattamente così, perché c'è stato uno sforzo unitario molto bello per far arrivare Milano a questo risultato. Milano si è preparata bene, è anche un metodo, un lavoro per progetto, un lavoro unitario che il cui stile probabilmente va mantenuto, e un'eredità che resta quella della candidatura per EMA, evidentemente. Allora, io ti ringrazio, grazie a Sara Monaci del Sole 24 Ore anche per questi aggiornamenti puntuali e rapidi su quello che stava succedendo in quei minuti a Bruxelles di EMA. Ovviamente torneremo a parlare, ci sarà ampio spazio anche più avanti nel corso della nostra programmazione e anche in effetto notte. Noi nel frattempo cambiamo argomento, tenendo di sfondo, di sottofondo, questo velo di tristezza per la sconfitta del capoluogo lombardo, e andiamo a parlare, sempre con un velo di tristezza, di banche. Soy el fuego que... Allora, sono due le banche sulle quali puntare i riflettori, lo sono ormai da una settimana, ma più di una settimana, però diciamo che nell'ultima settimana abbiamo visto parecchio. E oggi delirio borsistico come sempre in questi casi, con Creval che guadagna oltre il 30%, Carige, Tonfo di oltre il 30%, quindi due andamenti opposti. Anche se Fabio Paesi del Sole 24 Ore, buonasera Fabio, bentornato ai nostri microfoni. Buonasera. Mi sembra che un minimo di schiarita per quanto riguarda Carige ci sia stato. Ma sì, è stato trovato un accordo sull'aumento di capitale. Il problema è che, come dire, la crisi bancaria non si è esaurita, nel senso che è vero che le sofferenze stanno decrescendo, e questa è la notizia buona, nel senso che il bubbone che per anni ha zavorato le banche erano il livello di sofferenze, che era doppio rispetto all'Europa. Rimane tale, però c'è un flusso in entrata che si sta diminuendo, quindi il tema sta lentamente rientrando. Però ripeto, abbiamo visto le quattro banchette saltare, abbiamo assistito alla nazionalizzazione di MPS, perché MPS oggi è una banca pubblica con lo Stato al 70%, era l'unica possibilità di salvarla. Abbiamo visto le due venete, il bagno di sangue, e Carige, come dire, aveva gli stessi problemi di MPS. Una banca sorprendentemente non è mai stata sotto i riflettori è proprio il Creval, che è un po' un caso particolare, perché tutti già, abbiamo... Già, perché la vicenda del Creval è partita un po' sotto, esatto, traccia, no? Per poi esplodere, esatto, negli ultimi giorni. Infatti il Creval, in realtà, qualcuno è riuscito benissimo a distogliere l'attenzione. Tutti a parlare di MPS, Carige, delle banche venete. Il Creval aveva una qualità del credito che era veramente, come dire, messa quasi alle condizioni di Carige. Io ho fatto un calcolo, in Valtellina sono due banche, il Creval e la Popolare di Sondrio. Storicamente una andava molto bene anche in borsa, l'altra molto male. Andare a vedere i bilanci e scoprire, la Popolare di Sondrio aveva gli NPL a livello, come dire, della media del sistema. Il Creval aveva NPL doppi rispetto alla consorella che sta a Sondrio. Quindi uno si chiedeva, ma come? Due banche che operano in Valtellina, territorio ricco, banche del territorio, Lombardia, una va bene e ha poche sofferenze, l'altra ne ha il doppio. E lì è successo che il Creval si è messo a fare molta più politica di prestito alle imprese anziché mutui alle famiglie, quindi ha preso un rischio. Quel rischio però è stato sempre tenuto un po' nascosto, nel senso che tutti gli analisti vedevano che il Creval aveva il problema, come Carige, di sofferenze insostenibili. Sì. La banca evidentemente è riuscita in qualche modo a tranquillizzare, salvo poi far esplodere la patata bollente quando ha detto: io queste cose qui le vendo, farò un buco di bilancio mostruoso, ho bisogno di un aumento di capitale che vale tre volte il mio valore di borsa. Ascolta Fabio, sia su Carige che su le altre banche, a partire dalla Popolare di Vicenza, oggi... lo ricordiamo, almeno ieri, pardon, il Corriere della Sera è ritornato sul tema di Popolare Vicenza e dei beni dei vertici di Popolare Vicenza, raccontando che c'è stata una corsa alle donazioni dei beni, trasferendo proprietà e quote in fondi patrimoniali, per di fatto ci sarebbe stata questa operazione per liberarsi e occultare patrimoni. Mm-hmm. Beh, Quindi abbiamo visto episodi di questo genere, abbiamo visto episodi non dissimili per quanto riguarda Carige. Da quel che ci racconti tu di Creval, invece, la vicenda sembra più un errore di valutazione, sì, cioè concedere prestiti alle imprese, sì, in una fase pre-crisi e poi trovarsi in piena crisi con le aziende, allora, che falliscono e non riescono più a ripagarti. La differenza è essenziale. Mentre c'è stata vera e propria malagestio in Vicenza, Veneto Banca, MPS e anche Carige, Berneschi è stato arrestato, non dimentichiamolo. In Creval invece, secondo me, è accaduto che si è preso un rischio di troppo, lo si è calcolato male, lo si è tenuto abbastanza nascosto, quantomeno sui giornali di Creval non si parlava. Il problema è che tutti gli analisti sapevano che aveva livelli di sofferenze analoghi a quelli di Carige. Il problema è che la banca l'ha tenuto in qualche modo sotto traccia. Quando poi ha rivelato l'entità dell'aumento di capitale, quel giorno il Creval in borsa ha perso il 40%. Quando perdi il 40% in una seduta, oggi puoi anche recuperare il 30%, vuol dire che anche il mercato, tra le altre cose, non se lo aspettava di quelle dimensioni, perché il 40 in una seduta vuol dire che tutti sono messi a vendere il Creval, che era, come dire, tenuto nei portafogli, perché si pensava. Ma veramente la cosa che fa impressione è che le due banche valtellinesi, appunto la Sondrio e il Credito Valtellinese, hanno avuto andamenti completamente difformi, e quindi c'è un tema lì di gestione bancaria. Cioè, se io fossi un azionista oggi, l'azionista della Sondrio, tutto sommato, come dire, plaude o comunque è contento del suo portafoglio azionario investito in titoli da proprietà di Sondrio, direi che chi ha investito nel Credito Valtellinese non è proprio così contento. Insomma, lì ci sarà probabilmente, succederà qualcosa, cioè il vertice bancario verrà in qualche modo messo non sotto inchiesta giudiziaria evidentemente, ma sotto inchiesta dell'opinione pubblica per questa vicenda. Sì, chiaramente è una questione, appunto, di gestione, non di malagestio, ma di gestione sbagliata. Sì, hanno preso un rischio puntando molto sulla clientela corporee, prestando fuori regione, quindi proprio il Sondrio più difensiva, il Creval molto più aggressivo, e quell'aggressività oggi l'ha pagata con quell'effetto sorpresa di quel giorno. Sì. Perché, ripeto, in borsa capitalizza 3 volte meno i soldi che adesso chiede al mercato, e quindi... Sì, almeno 40 riportava le quotazioni a un valore più realistico. Ecco, per quanto riguarda Carige, dopo, come si diceva, dopo la crisi all'inizio della settimana scorsa, sembra che ci siamo, per quanto ovviamente fai un aumento di capitale ad un centesimo per azione. Ci siamo, ma non dimentichiamo la famiglia Malacalza, che è il primo azionista. Noi abbiamo scritto anche un pezzo qualche settimana fa. In questa avventura pre-aumento di capitale ha perso 250 milioni di euro. Cioè, hanno comprato il titolo nel 2015, nell'arco di soli 2 anni la famiglia Malacalza ha bruciato completamente l'investimento. Anche lì, forse Malacalza pensavano che l'era Berneschi si fosse chiusa. In realtà le pulizie della banca andavano fatte oltre l'era Berneschi, e si è visto. Il problema è che abbiamo banche che si fortificano sul capitale. Il vero tema delle banche adesso non è aver messo il capitale, gli azionisti lo faranno, chi non lo farà verrà diluito, azzerato, però è capitale di rischio. Il vero tema è che gli NPL stanno decrescendo, però c'è un tema di ricavi, perché in questo clima, con i tassi ancora così bassi in Europa, tu devi aumentare molto i prestiti per mantenere alti i ricavi. In realtà i ricavi sono declinanti, e quindi tu hai un problema di redditività che rimane ancora troppo bassa, e quindi la crisi bancaria, il grave della crisi bancaria è passato. Nel senso che non mi aspetto, sì, fallimenti, ma c'è un sistema bancario ancora gracile sul piano di poter fare ricavi. Sì. Devono chiudere gli sportelli che sono inefficienti, mandare a casa il personale per recuperare redditività, perché oggi le banche italiane hanno una redditività che è modesta e non ripaga il costo del, sì, capitale. Ecco perché, sì, per spiegarlo agli ascoltatori che meno se ne intendono, guardate, è molto semplice: se i tassi sono più alti ci perdete di più voi quando accendete un mutuo, però ci guadagna di più la banca e quindi, certo, fa più ricavi. Se invece i tassi sono bassi, per voi va meglio perché avete il mutuo a tassi più bassi. Per la banca un po' meno. Per la banca un po' meno, perché molto semplicemente guadagna di meno sul denaro che vi presta. Io ti ringrazio, grazie a Fabio Pavesi del Sole 24 Ore per averci aiutato anche oggi a fare un punto sulle banche. Io mi limito a ricordare agli ascoltatori che non si fossero messi, che si fossero messi in ascolto solamente adesso, si fossero persi gli ultimi gli ultimi 20 minuti di trasmissione. La notizia che abbiamo dato poco fa, una decina di minuti fa, è che Milano ha perso la battaglia per ospitare l'Agenzia Europea per il Farmaco. Ci sono state 3 votazioni. Nella prima votazione sono passate Milano, Amsterdam e Copenaghen. Alla seconda votazione, al ballottaggio, sono andate Amsterdam e Milano. Amsterdam e Milano hanno ottenuto ciascuna 13 voti e si è andati a quel punto al sorteggio e ci ha detto male, ha vinto Amsterdam e quindi Milano non ospiterà l'EMA. Chiudiamo qua dunque questa puntata di Focus Economia. Ringraziamenti vanno a Valeria Bernardi in regia, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in assistenza e in redazione. Un grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto. Una buona serata da Simone Spezia e ci sentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24. Libera la voglia di fare.